come parlare con qualcuno che ne sa un po' più di te, di come andare al mare senza più rischiare di affogare, di vivere la vita come viene, di stare bene, di non pensare a tutte quelle situazioni, di trascurare tutte quante le emozioni, di rispettare tutti quei comandamenti, non dare retta a tutto quello che ti senti, ma non vorrei capire tutto quanto adesso, perché è più facile trovare compromesso. Vorrei l'America senza contraddizione, vorrei le donne tutte a mia disposizione, vorrei trovarmi ad essere l'unico più bello e camminare sotto l'acqua senza ombrello, vorrei essere tutto e tutto quanto non mi è consentito, non mi si chiede di portare il libro a dito, però non voglio neanche ritrovarmi da solo e ripensare a che potevo fare per me, frugando tra quei sogni maledetti che faccio senza nemmeno voglia di scaldare il caffè. Però non voglio neanche ritrovarmi da solo, vedere che la gente è più veloce di me, strisciare le parole per sentirmi uno straccio, guardarmi in faccia e non avere ancora un perché. Entra più male, male, male, male, sale, sale, sale, sale, fino a diventare tipico. Entra più male, male, male, male, sale, sale, sale, sale, fino a diventare tipico. Entra più male, male, male, male, sale, sale, sale, sale, fino a diventare tipico. Male, male, male, male, sale, sale, sale, sale, fino a diventare fisico. L'avevo davvero che non occorre visitare le città e fare tutto quello che ti va, ma con le regole alla fine poi mi sento stretto, così sto attento a non aprire troppo quel cassetto, che i desideri sono convinti della realtà, quando ti scappano di mano volano più via. Ma quando guardo il cielo e tutte le sue stelle, unisco i punti, appare un cuore un po' ribelle. Vuole l'America senza contraddizione, vuole le donne tutte a sua disposizione, vuole trovarsi ad essere l'unico più bello e camminare sotto l'acqua senza ombrello, vuole essere tutto e tutto quando non gli è consentito. Però non voglio neanche ritrovarmi da solo, di un bambino.